Sì, sono soddisfatta, finalmente sono riuscita a prendere anche un bel punteggio nel tecnico, che insomma era un po' il mio problema. Ho cercato di correggere gli errori che ieri le allenatrici mi hanno detto. Sono scesa in acqua comunque con un po' di agitazione perché era la prima finale, era un risultato a cui potevo puntare. Poi pensando che ho superato, cioè sono salita di 2 posizioni nella classifica rispetto ai mondiali di 2007, e mi fa capire che comunque il lavoro che sto facendo è buono e quindi sono molto soddisfatta. Migliorarsi in finale è segno che c'è il DNA giusto per portare questo sport in alto, no? Speriamo, comunque da ieri a oggi ho migliorato di 1 punto e passa, quindi è un buon miglioramento, speriamo adesso negli altri esercizi di prendere ancora di più. Senti, sensazioni in acqua, questo clima del Foro Italico, questa attenzione per il sincronizzato anche in questi giorni, immagino che sia una cosa abbastanza nuova per te e per voi. Sì, comunque è la prima gara importante che faccio in casa e un mondiale, insomma, può darti delle grandi soddisfazioni ed è bellissimo sentire il sostegno del pubblico prima, dopo, durante la gara. Sono molto contenta di fare questi mondiali in casa, sì.